Andiamo dal sud con la passione che ci guida ancora. Nella valigia una missione nuova. Nella valigia troppi sogni e zero speranze. Ma se guardassi indietro, vero, ci metterei un po' meno ansia. E quando torno a casa oggi faccio il pieno di ricordi. Perché alla fine siamo terroni, ma tu te lo scordi. Tutti emigranti dal centro del mondo, navigando su barconi di ideali in un mare profondo, abitanti incoscienti di un posto fecondo, nelle mani di chi può annientarci meno di un secondo. Quindi tengo i ricordi sullo sfondo, mi accompagnano nelle giornate di un vagabondo, ritrovando la famiglia ogni volta che trovo un sorriso. Più di una lacrima ha solcato questo viso, hanno segnato le mie guance, ma mi hanno anche insegnato a riconoscere le mele marce. Perché se il sole nella nebbia non rilascia calore, io vengo fuori con tutto il mio valore. Dal sud, veniamo dal sud con la passione che ci guida ancora. Nella valigia una missione nuova. Dal sud, veniamo dal sud, quel sogno che diventa la mia storia. In questa valigia verità che m'hanno fatto crescere. Guardando avanti c'è un futuro in cui voglio credere, tenendo conto di chi davvero sono. Ho un grosso difetto, sono davvero troppo buono, ma dentro c'è qualcosa che si muove. Forse perché sto conoscendo persone nuove e lascio alle spalle i giudizi dell'invidia. In questo viaggio porto ideali nella loro custodia, come bagagli a mano, la penna ed un foglio. Scrivo mettendomi a nudo, rimanendo spoglio, la valigia colma di speranze perse non c'è più. Nella mia testa solo rime sparse e poco più. Materialmente non m'è rimasto niente, ma dentro porto tutti i valori della mia gente. Cantando di ricordi che ora sono in bianco e nero, sto scrivendo il mio domani ripartendo da zero. Dal sud, veniamo dal sud con la passione che ci guida ancora. Nella valigia una missione nuova. A chi ne avrà memoria. Mi ricordo quella strana sensazione, stava cambiando, oggi insegue la passione. Lontano dagli effetti e dagli effetti personali, nella valigia quelle urla eccezionali. Più passa il tempo e più mi ritrovo sola, per conoscere se stessi il tempo vola. Aprire la valigia e far uscire sogni, domani è un altro giorno, il futuro e i suoi disegni. Domani è un altro giorno, il futuro. Veniamo da su, seguiamo una passione che non ci abbandona più. Domani è un altro giorno, il futuro e i suoi disegni. Ma noi veniamo da su, seguiamo una passione che non ci abbandona più.